10? C'è qualcuno su canale 10? Giulio, se ci sei, canale 10, capo. Hola. Chi è avanti? Chi è avanti? Ciao, tata. Ciao, già. Scusami un attimo, che sto provando le stazionali, cioè stazionali. E K, anda bene me da già. 0-0, proprio nulla, non ci muoviamo in macchina. E infatti, anda bene. E poi, un po' più infatti, cosa... È brutto che quando c'è un motivato, allora gli assalto. Gianni. Dimmi. Ma non è un controllo già, questo è quello che mi stavo ristrutturando, K. Com'è? Bene, bene. Va bene. Perfetto, ti ringrazio. Forte e chiaro. Ma qual è quello da Palmo? Sì, gli ho messo la batteria da 9 volte, così appiccicata dietro. E tutto restaurato, già l'hai visto poi. E così per provarlo e vedere come andava con la sua capsula originale, perché era un po' ossidata e non sapevo neanche se funzionasse. Sembra a posto, ti mando la foto del risultato. Io poi vado a vederla perché sta caricando il telefono, ce l'ho dentro. Va bene, va bene. L'altro finito hai, quello da tavolo. Eia, finito. Anda bene. Avanti da Eia. Io stavo lavorando fino a poco fa e stavo spostando il frigo, gli ho fatto l'impianto nuovo, è un casino, mamma mia. Si è spostato in un altro angolo? No, non l'ho portato dove c'è quel mobile là, c'è un posto adesso di lusso. Adesso c'è più posto. Me l'ho tolto da dove era il frigo, perché no, non andava bene lì. Non vi era roba di bassa? Vabbè, il posto quello è la casa. Cosa? Ho detto il posto quello è stretto come posto. E adesso c'è un'altra cosa. Cavagliamo, va bene. Se va bene lì, cosa ne ha fatto? La punta? No, l'ho attaccato da un'altra parte, perché c'ho anche un router, gli ho fatto un impianto nuovo e l'ho spostato, l'ho messo quasi attaccato al mobile e così c'è più posto per andare verso la finestra. Vabbè, sono tutta un'ora e china, vieni a vedere il concerto che ce l'ha lì tutti. Io stesso sono mal di schiena, ma perché stavo lavorando, mi ho dovuto mettere il busto, cazzo, a rabbia di dolori. No, io ero in piedi, ore e ore in piedi ieri, guardando il concerto, perché non c'erano posti a sedersi, ero in piedi, capito? C'erano in merda, c'erano diversi cantanti che cantavano, c'erano, come si chiamano, quelli che cantano canzoni in spagnolo, ma e adesso non mi vengono. Io ho capito. Sono sparito. Oggi però... Tu nessuno conosci in questura, già? Sì, a Franco Bui. Ma uno che hai confidenza mi serve, perché gli dovresti chiedere un favore, che se no mi fanno aspettare 3 mesi per ritirare una certa cosa. Ah, lì bisogna andare dove rinascere il portuale, lì è l'ufficio a parte. E vabbè, non la conoscerà chissà di Rubuccio d'Arma. No, lo conosco, lì c'è... Vabbè, l'ha aspettato, non stai andando. No, che devo andare. Il privilegio è la grande fortuna. Che adesso posso camminare. È con grande piacere. Perché non mi fa più male, diciamo. O se è sbloccata sta cosa. Vabbè, l'attacco la devo fare il giorno 19 e mi diranno loro. Infatti, ma c'è una vita che non lo vedo a Franco io, boh. sono una vita, frequentavo con lui, ero in graffa insieme. Quasi sono una vita che non lo vedo più. Sarà la roba di 30 anni. E allora no. Ci vuole uno che abbia confidenza. Vabbè dai, vediamo un po' cosa riesco a fare. A chi tu si ne negato? L'altra volta ha parlato lui, in una settimana me l'hanno dato. Tragico evento di cronaca. Capito. Questa volta che non so più frequentare in Chivi, ha detto che non poteva fare nulla. Tu la credi? Ma scaricavalite. Ma è quelli che andavano a tirare. No, chissà che conosce un brutto. Una tragica fatalità. Mi l'ha domandato. Ha detto mica ho versato tutto. Ma hanno cambiato tutto. Non posso fare più nulla. E vaffanguala. Andiamo a rangire. Sì, perché queste cose qua ci mettono un po', fanno degli accertamenti prima. Ma che accertamenti devi in vaghi, è un rinnovo. Non è che me lo stanno rilasciando, me lo stanno rinnovando. Capito, che accertamenti devi in vaghi. Andano, vedono che è tutto a posto e me lo devono rilasciare. Cosa stanno a rompermi le scatole? E che si rabbidiano i gombo, dammi. Gli accertamenti li fanno perché tu praticamente da quando ce l'ho vivi a quando ti è scaduta puoi aver commesso qualche reato e loro se hai commesso reati non te ne azzini più, non te lo rinnovano più, ecco perché li fanno. Già lo so, ma io non ho ammazzato nessuno nei 5 anni precedenti, capito? È per quello che ti sto dicendo, loro vanno in tribunale, vedono che non c'è nulla e mi devono rilasciare la situazione. Cosa stai lì a rompermi le scatole? È che se la pigliano con un comodo, dico. Milano, queste qui non sono così urgenti, è solo per fare sport e basta, quindi erano futi lunghi. Sì. Lo dicono loro che non è urgente. Io dico che è urgente, perché è un mio diritto. Cazzo cos'è? Ha già pagato tanti di Napa, ha presentato dei documenti, da voi tu mi dici che vi vuole 3 mesi per fare gli accertamenti. Aiuto. Se mi conosce qualcuno dovrà rilasciare il portodanno, quindi in quell'ufficio lì. Io conosco uno un bel in alto, ma non voglio chiedergli il favore. Perché lui basta che alzi il telefono e me lo danno immediatamente subito. Senza fare accertamenti, né chi c'è né chi tu. Capito? Che è uno che li mette tutti sull'attenti, uno a uno lì. Però non gli voglio chiedere favori io a quello, capito? E quel motivo, il motivo è quello. Perché io non voglio chiedere favori a nessuno. Vedi tu. Io te lo sto dicendo, con Franco c'ho molta confidenza, però sono tantissimi anni che non lo vedo, da quando si è separato non l'ho più visto. E non so neanche che ufficio sta lavorando, so che era in pattuglia prima, tu non lo so se sta lavorando in ufficio. E infatti io pure ne conoscevo, ma... E poi conosco quello là, sei parente mio, e li metto tutti sull'attenti, basta che io vado, voglio parlare col dottor Toto. Sono andato un bel di volte lì, quando era in un altro ufficio, e subito paravano a pigliarmi addirittura. Ma la domanda vivo la sbagliata, attentemente, non è da fuori. Chiedile, se te lo può fare, per favore. Sto dicendo che quello alza il telefono e glielo portano direttamente lì. Se ti sono contenti che è uno da 90, mi. Sì. E tu allora approfitta, chiedilo a lui e vedrai che te lo fa per i sciuti. Lo so, ma non voglio chiedergli il favore, manco andare lì. Sono andato tante volte e non sono passato assolutamente né a salutarle né niente. Non voglio disturbare nessuno, ho capito. E allora se ti ridrebbe in città e aspetteremo. Sì. Cosa vuoi ti dica? Allora non gli andò alla sacchetta e mi rudate. Come ho fatto l'altra volta. Sono andato, pronto è la situazione del ha dato subito ed era pronto 15 di prima, dimmi tu. Perché secondo ti trovi, capito? Ce l'ho mille con calma. Quella che c'è adesso è a cazzo la conosci. Poi mi è paruta un po' così. Mi è paruta. Ma vediamo un po'. Ma cos'è, poliziotta o asciutta dall'esterno? No, poliziotta, è in divisa sempre. Allora, chi ce n'erano che davano il porto d'armi? Sono più delle persone che fanno questi lavori. Aspetta che mi stanno telefonando. Luca! Già, sono al PC, dimmi. Fammi sentire l'altro di microfono. Aspetta che lo devo attaccare in questa qua di radio, che gli avevo fatto le connessioni per questo. L'unica cosa che è, lo slider è andato purtroppo dell'eco. Ecco, tutti gli altri componenti li ho messi tutti nuovi, però lo slider dell'eco, ma non mi interessa, già, capito? Un microfono che mi piace, capito? Aspetta, che stacco questo, metto la batteria, quello lì, un attimo. No, vabbè, non è batteria, prendo macchine fotografiche, io vado di lui, sono da 7 volte. O 6 volte sono, 6 volte forse, vanno bene perché io lo usavo nel Turner P2U. Quelle delle macchine fotografiche, quelle piccole. Ma questo da tavolo, adesso non so se ti stai confondendo, adesso ti sto facendo sentire il Densei con la tavola, che c'era però già l'adattamento a 9 volt, capito? La batteria ci sta anche dentro, così che non c'è bisogno. Mentre per quello parlare che ti ho fatto sentire prima, sì, quello sì, l'ho vista la batteria. Ma adesso per provare se era tutto a posto, i componenti gli ho messo lunghi, eccetera, gli ho messo una batteria da 9 e come hai sentito funziona bene. Aspetta un secondo che metto la batteria all'altro e te lo faccio sentire. Sta anche strappando la parte fuori. Ah, aspetta. Guarda se va bene, è a 1, è il Mikey Game. Adesso va bene. Un attimo, ho un 43 da vendere, chi lo vuole. Se c'è da vendere, 4.30 adesso. Ieri ho fatto un collegamento già. Che ieri ho fatto un collegamento con Edimburgo in Scozia. Dici che arrivi un bel potente, chiaro grido. Che beh. Adesso ce l'ho l'antenna messa bene. Te credo. Con l'antenna a posto, peccato che il materiale che non è che serva molto, ci sono persi cazzate, il materiale che è me. E vabbè, canto dura dura, da voi, vuol dire che più un paio di cecchi di chi su, come si chiama, di chi su materiale elettrico non si rompe più, capito? Non ci vuole molto aggiustarla. Se si rompe, sempre che si rompe, è sempre diritta, che balla a gas. La vedo quando esco in macchina, è sempre bella ambrosa, si vede da lontano. Io so perché, ma ci sono stati tanti che ci sono lamentati, guardate anche il furo, e ci sono stati che sono lamentati che gli si è troncato. Ma qua ha preso tante di quelle sbattulate, chi non ha idea, a vederli hanno orizzontale, da Ruventus, è puro, è tranquilla, cosa vuoi ti dica? Adesso che sul tetto è sempre bella dritta di lusso, si vede la via Sorso, quando tu esci da via Sorso per andare verso il ponte, cazzo, si vede da dentro via Sorso, ma vai da un po' come. E poi se vai sul ponte si vede ancora meglio. E beh certo, se sul tetto si vede meglio sì. Scusate, una lunga. Gianni, via. Aspetta, sì, stai pescando. Guarda così, va bene? L'amplificazione ha 2 del microfono. Questo è quello da tavola. Ah, fanno aspetta. poi tutto in alluminio, ma sei tutta la carcassa. Innesca. Sta innescando ancora? Prova a vedere se basso di radio. Guarda. Prova a fare un passaggio lungo. Così non vedo innesco io. E già c'è. Se c'è un ritmo che sta fischiando, poco ma sta fischiando. Ma senti sottofondo che c'è? No. Vediamo se. Guarda così. Non c'è troppo basso di radio. Guarda. Prova. Guarda così, com'è? 1, 2, 3, prova. Così non innesca, ma si è basso, non si è amplificato. È così innescando? No. Così, però se aumento il marchighi resta a 2. Senza la massa, dai, cappa. Innesca. Va bene. Mazzani, ripresa. Sì, cappa. Oggi, cazzo, mi ha pulito tutte e due quelle robe nere, mi ho pulito, cazzo, già ero un giorno che non le vedevo. Fate pulire della gara allora. No, le ho oliate perché bisogna stare attenti, o sai, sui cazzo nuova, si può dire che non è trattata, che l'altra è più grande di me di età, ma è bellissima. Quella più piccola, sì, quella io la conosco. Anche dove ce l'avevi, sotto la scrivania. Mica. Ma mi sono tutto lì. Sì. Vabbè, comunque. È sopravvivo, allora. Arguido, una volta l'ho portata lì. Perché ne avevo vergogna perché era troppo piccola. Mi ha detto, portala che ti faccio vedere il danno che fa. Cazzo, ed è davvero. Non vai danno, vado. Perché c'ha la carne a quei visi. Quella lì fa danno veramente. E che danno può fare? Che hai fatto per tirare? Danno fa. Fa un bel di danno quella lì, fa riuscirmi, ma fa di danno. Ma precisa, ecco, le pistole. Precisissima. Quella lì è una delle poche che ho usato che è precisa. Sia quella grande che quella piccola. Tutte e due sono precise quelle lì. Se viene fatto di schiavo, ragazzi. Se le usi già va bene, per lasciarle ferme io la carabina ce l'avevo ferma ma la sono venuta. Vabbè, ma non era Matessi cosa come ti dici che va giù. Io faccio una carabina, cazzo, in battimi letti su 100 metri, mi. Che c'ha più il cinghiale, cazzo, di strasineggi. Solo che a caccia è vietata quella. C'ho anche il cannocchiale, è più mano rugano, guarda, che su cannocchiale questa di più della carabina. E anche io ce l'avevo, il calcoso ottico, ce l'avevo anch'io, per la mira. Ma non è come quello che c'ho io. Quello che c'ho io costa di più della carabina, quel cannocchiale. Cazzo. Va lo zoom, va tutto, tu lo devi vedere. Come ti è. Ed è fatto proprio per quella lì. Poi taratto come si deve, perché io l'ho taratto bene. E dove miri va il colpo. Il mio aveva anche la luce, non solo lo zoom. C'aveva lo zoom e la luce. Vorrei cosa? Sì, quella è la luce è una cosa opzionale. C'è un break, avanti il break, buonasera. Ciao Lazzarino e ciao Gianni. Ciao a tu. Ciao Toninus. E a lui. Di radio sempre bene, sì. Ehi. Ok, di questo pranzo, non penso roba di pasta con la crema già. No, stiamo parlando di carabine. Siccome te già ti conosco troppo bene, che tu ci bocchi dolci. Cosa ne ho pure, ma la prendo la roba. non c'è problema. Poi resto senza mangiare un po' di tempo e faccio così sempre. Stamattina avevo la glicemia a 78, prima di pranzo. Com'è oggi bassa? Sempre così ce l'ho io adesso, perché sto mangiando poco pane, niente pasta, al pane ne mangio un quarto di panino, per forza che poi si abbassa. Ma non è bassa bassa, dai, va bene. E ieri per dire, ero a casa di amici a cena e abbiamo mangiato un cotto, abbiamo mangiato un sacco di roba, c'era roba buona qui. E niente, eppure non mi è salita, lo sai. E mi ha dato, mi ha invitato anche il gelato e mi ha messo il cognac sopra. Ma già, tu sì, un tipo che praticamente ad aroma dolce ti piace molto, come gelati, paste, la frottolella eccetera, quindi stai soffrendo in questo periodo che stai mangiando pochissimo, di la verità. Tu vuoi iniziare a guardare anche a te, non ti piace di mano. No, io ce le faccio qualche volta, mi adeguo, però mi giuro sempre la glicemia, poi non posso andare oltre, non ci vado, tranquillo. Avanti Natali, già ti conosci anche Natali, non preoccuparti. Ma conosci pure a te ti piace nel rivirone con la mortadella, mi fai da bravo. A Tonino le piacciono chi si mangia il pranzo, chi si bidone. E te cosa hai detto Gianni? Adesso che non cos'è più, poi ti do lo stipendio finavese, ecco qualcosa. Natali, ti do come dice Gianni io. Vai, vai, che era una battuta, era. Iaia. Se non buffonemmo. Gianni è contento mio adesso perché ti ho attaccato. Cosa? Gianni è contento adesso perché ho attaccato pure a te, cavolo. Beh, quello senza fare dubbio, infatti se sta facendo tre risate. Mangio dei filoni di cose, di baguette, baguette calde con mortadella, anzi lui ci mette, ti metti la forchetta. No, guarda, te ne dico un'altra, con Franco per due volte ci abbiamo fatto quella forchetta rotonda, tolta tutta la polpa, la molica, e ci abbiamo messo tre mortadella dentro. Gesù Cristo mio. Mamma mia, se mi la mangio io, cazzo, mi sarà la glicemia a 4 miglia. Da poi, chi dimostra come ti ha fatto a noi Natale? E cosa abbiamo fatto? C'ha il ciappano che c'ha mortadella che avevamo acciappato noi. Raccontavi tu già, quando siamo andati a piccare a casa di usaggio. Una volta siamo andati in questo negozietto che era il portatore, se penso che non ci sia più, prima del rifornitore lì. C'era questa delusione alimentari, c'erano ancora quelle affettatrici di quelle rosse a manovella. Con questo profumo di mortadella come entravi tu lì, ci ha invitato e tornata lì. Ah, io si come un poco di barini con la mortadella, quando andiamo a pescare qui ce ne stiamo lì tutto il giorno. E così abbiamo fatto, siamo andati a Castel Sardo. E come se la magna pare la mortadella buona, bella saporita, ma buona di quella proprio casa che ti invita a mangiare. Come siamo a là, e vero un cane, sempre a mangiare, lui, vai a cucere, e Natalino, bro, da qui, bro. Stasera così siamo usati. Sì, Luca ne dà due fuochi, vera, papalaccio. Non sappia la capacità su cane. Appena uscita calla, ci metti la mortadella e la morte sua non ce n'è. Ehi, lo so che sono buoni, che si va che ti gasi e gasi, mamma mia. Ehi, ma si mangia una di chi si cazzo, quella mortadella mi sa la glicemia a 4 miglia. Ti mangia la baguette in calda con la mortadella. Io me la facevo quando andavo a fare la spesa, adesso che non posso farlo non lo faccio più, ma prima me la facevo, ci mettevo davvero un letto e mezzo di mortadella e me la mangiavo. Cazzo, ho trovato gli occhiali già, erano in una busta, tre paia di occhiali. Chi la più bella, non sa più, siccome ti raccontendi, no? E non sapevo dove trovarli questi occhiali. Mi girano in una buca, e verani gli strisci della macchinetta mia, verani altra cosa, la roba che ho trovato stamattina quando ho spostato il frigo, gli ho rifatto l'impianto, vado a buvarli, mi serve una spina, cazzo, domani ande me la compareggio, una spina nuova perché c'è il filo che chissà che cazzo l'ha fatto, lì metto la spina nuova. Già si può fare, non c'è problema. Quando è stato la maglia più calda, prima c'era la coppa che me la faccio pure, ma non c'è dubbio a fare. Dai lo spin va, Tonino, vero è Tonino? Io la prendo direttamente da cosa, l'aerospin. So già quando lo sfornano, so già lì e subito la pella. E ti butti un coltellino già. Ti butti, ti butti dentro in mortella e ti la butti bene. E bisogna stare lì, già mi ha detto e a che ora lo sfornano. E a chi cosa vuoi andare? Ora magna pure tu? No, no. No, se capita quando vado dall'aerospin, anche se ci saranno poco dall'aerospin, ci vado per prendermi il gel, perché c'era un gel che è buono, non ti sporca la testa e tiene bene. E poi compro detersivo per il water, quello per il water, quello lì è molto buono, quello gel. 9, 9 e mezzo sfornano le baguette in via le Porotorse, ok? Adesso siete rovinati che vado pure io. Anche più tardi, perché ne farò diverse di fornati. No, ho detto sbagliate ore, io non ci vado più tardi, capito? Quindi anche dopo mangiare chi vuole tre mesi si può portare da funzionuso qua. Allora mi poso in macchina, gatta, mi la imbutto e mi la mandico. Ma che problemi ci sono? Perché la pizza non la mangi, è la stessa cosa. E vedi, la pizza non è che me la faccia salire più di tanto a me la glicemia, ma la baghetta con la mortadella io dico mi la vado a stare a Ricelli. Guarda, io sono andato, vado spesso allo spin, invece l'altra volta sono andato a cosa, MD, che c'è, dove c'è la paperetta, la notte lì a Pretanina, c'è la rotatoria. Come sono entrato, ho visto questi cacchemira, nata lì, manni, metti, miraggi cooperati in pressa, a stessa durata in casa, con due dito per una più. E ne hanno regalato un poco a me moglie, casa, E mi piacciono così assai a me, ma non mi posso mangiare. E poi devo andare giù, mangiati l'impresa, Giuditto. Quelli erano i capi che c'erano in campagna di Natalino, erano piccoli, ma dolci, ma buoni. Come c'è, dove c'è il soccorso sardo a fare i dati dolci? E io sono un amico mio che lavora con me, mio collega, e lì è tutto quanto alberi di cacchi piccolini. E io sono poco che ne ho bagnato, me ne ho fatto. Ehi, di la Luca Putti, capiti, chi già lo sa è tu, a vedersi la Nevone che si vede in campagna mia, dimmi lo già. È buono, dai, se mamma mia la so che ti intanto, lo già, mi rubigli un cacco, che tu dici no, ti guardi le mani, ma, dai, dammi uno, poverino. Scusa, sono al telefono un attimino. Era diabetica pure lei, ero grido. Si deve avere un cacchio come ti risiede in Droviremo. Il cacchio, uva e fichi sono micidiali, anche la banana. La banana non ne posso mangiare. Me ne ha dato una mia moglie l'altra volta e mi ha fatto alzare la glicemia di brutto. Non ne mangio più. Non lo sapevo che la banana faceva quello scherzo. Nettali, ieri sera io sono andato a una cena, ho mangiato con uovo e piselli, ho mangiato salsiccia, formaggio, cosa devo dire, tutto di più. Poi alla fine ha messo il gelato e ci ha messo il rum. Io sono già andato più rum, me ne pulisco, che gusta questo che è buono, ed era un bel uomo con il rum sopra. Da qui assaggia il vino, assaggia l'isso, assaggia l'altro, assaggia questo qua di usili, questo qua di sorso, questo qua. Ogni volta che andi qui mi mandano in carinato. Io lo stesso la cena dai vicini, quei medici, mica se ne devono andare, mi dispiace così tanto perché gli ha dato lo sfratto che serve al figlio, la casa, e hanno trovato la casa da un'altra parte ed ero a cena da loro, se non eravamo una ventina, cavolo. Poi è giunto pure uno di Chissini e di tutti i papi denni in inglese, erano, ma di lusso veramente ieri notte. È un saluto che abbiamo voluto dare, là. Sì, perché devono lasciare quella casa, c'era anche quella chirurga Gaia, c'era, e infatti avevamo papi dato dall'affare che devono fare a me, gliel'ho detto, la situazione. E mi ha detto, ma sempre fumando stai? Ah, la giusti. Sì, cattivo di raggiudizio di bollare la sigaretta. No, non ti ha fatto male ma con l'infarto. Anzi, quando mi è venuto l'infarto sono stato 8 mesi che non ne toccavo una. E smesso di colpo proprio mia, già. E già me lo ricordo, poi tira una, tira l'altra e ti ha fottuto d'oro. E infatti adesso troppi problemi per mollare la sigaretta, mamma mia. Cavolo, ho dovuto fare a casa nuova, a nuovo, tutto il muro mi ho dovuto fare, tutta abiturata, e manco mare che è finito, a base di attatura di burimbe e basta. Vabbè, ma la sigaretta i problemi non te li allivia, te li aumenta. Ma quando sei nervoso non ce la fai. Ma così a mollare la sigaretta? Che la puoi mollare, ci puoi mollare. Lo so che la puoi mollare. Cazzo, io l'ho mollata di colpo la sigaretta e sono stato 8 mesi che non ne toccavo una, amici, e già nei 4 settimane. Natale, io ho quel problema al cuore che non era la sigaretta, ma lo spavento mio, ho detto basta la sigaretta, ed è stato basta adesso più di 8 anni che non fumo io, e non ho più pigliata, a me mi fa schifo solo l'odore di sigaretta. Vedi, a me non mi dà fastidio, è quello, è. Tra quelli che gli dà fastidio possono smettere meglio degli altri. A me mi ha tornato a fregare, se no io non ne avrei più toccato sigaretta. A me mi ha dato fastidio dopo quasi 1 mese che non fumavo più, non è che mi ha dato fastidio subito, Natali. E tu hai mollato 8 mesi e ti hai ripreso. No, è un suicidio, no, fate ben male la sigaretta, mamma, l'idea che ci peso io e i polmoni mi sono sporcato, ma la sigaretta buzzinosa, andare in una mano, governo che gatto venne avanti già. Dopo 15 anni o 10 anni, adesso non mi ricordo, è come se non avessi mai fumato, ti si puliscono i polmoni completamente. Già lo so quello. A me ogni mese mi veniva quell'arravanamento proprio quando non fumavo, e però non educavo, perché se lo toccavi ributtito, a chi mi veniva proprio l'arravanà mi veniva, a me. Ogni mese una volta mi veniva, però tiravo dritto. Dimo così, e sono stato 8 mesi che non ne toccavo una. Ma da voi mi ha fottuto come un pirla. Tu pensa che io uscivo anche a mezz'ora per me le sigarette, ma che sai? Quanto ho fatto schifo, che hai scintinuto a bere le sigarette, perché pensavo, nasce due, domani Zano, come ti metti il giudizio, tra, forse un caffè, subito mi richiede il caffè, mi è poi la sigaretta, una dietro l'altra, no, mi recupero il giudizio, ma con Nacio subito tranquillo. Anche di villiga. Quello è poco, Torino. Un amico mio, quando c'è stato quello sciopero dei tabaccai, non so se te lo ricordi, c'è uscito in Corsica a comprarsi le sigarette e ha comprato una stecca anche a me, perché qua non ce ne trovavo, erano tutti chiusi i tabacchi. A me me ne dava Leoncino. Non lo so, ma lui c'era una tabacchina alla stazione allora. Ma di nascosto. Faccio capire. Vabbè. Lui si è uscito in Chivi, c'è uscito in Corsica per prenderle. Ha abbinato 3 o 4 stecche di sigarette. Una me l'ha portata a me, di Camel. E le altre ce le ha tenute in luce. E io ho visto alla stazione che c'era gente, dei ragazzi di Cagliari, venivano per cercare sigarette. Sì, me lo ricordo, c'era anche un amico mio, voleva andare in Corsica, dice che in Corsica c'erano sigarette. Quindi, per carità. Oh, è nata lì, bocca di vino, il tuo vizio feo, pucci. Sì, Gaia mi ha detto cosa ieri sera lo stesso. Sono tutti dottori questi qui, davvero a cena. Non era uno che ne fumava una, mi dissi. Sono tutti giovani, nessuno ne fuma. Infatti non ho fumato niente. Quanto è durata la cena non ne ho fumato una. Anche per rispetto verso di loro, capito? Comunque, a parte il bufalaturri, lasciamo perdere la sigaretta, ma avete fatto venire la gana di mangiare la baghetta cacata con la sigaretta, ma con la sigaretta, con la mortadella, mi sa che domani mangiare un chizzo che è l'uni, so che chivi e mi la forza, la faccia buca. Poi li faccio le fotografie e ve le mando. Non è possibile. E me la fumate mi già. E anche io ho preso appena sottato al forno. Non è la prima volta che andavo alla Coppa che lì vi a Pasqua a fare la spesa. E quando uscivo dal forno mi facevo fare un etto e mezzo di mortadella, due etti. C'avevo quel coltellino in tasca che tagliavo col coltellino. E io faccio così lo stesso, io lo spingo. Mortadella è tutto lì, prendo la baghetta, mi l'ha affettato, vado in macchina, coltellino, porto con la mollica, mi brucia pure le dita, ragazzi, ancora a caglia, pongo la mortadella, me la taglio due, mi dai, comincio a mangiare, ui, che razza cosa bella, non c'è altra cosa, e poi rimango mezzo deccio tutto l'armazzano. E quella che ci vuole in picco. No, non mi dato la croce mia, l'ho provata mi già, no, a me no. Il pane la fa salire, la mortadella li saccati la fanno salire, come fanno a non a salirti? Vabbè, ieri eravamo a cena, ho mangiato di tutto, ho mangiato trippa, la cordula con i piselli, c'era salsiccia, formaggio, vino di tutti i tipi di usi, assaggiarisci, assaggiarasso, e mi si è fatto andare che era arrabbiato. Poi c'era una lì che non mi inciarinavo. E dopo mi ha messo anche il cognac sul gelato. Ho detto, mi assaggia il cognac, e poi mi dà qua vita, questa qua l'ha fatta questa amica di usi, di gusta la cara. Una cosa mi ha dato un lastra, ma non male che poi quando sono uscito a vedere il complesso già mi sono un po' mi svalutato. Ma io lo mettevo il gelato, non il cognac, come si chiama, è quello buono che è tipo sciroppo di mare. Ah, il Miles, mettiamo un cazzo, che buono già. Legge la... Mamma mia, cioè io ho che la macchinetta per fare le palline in gelato. Quando prendiamo le fraschette nel tazzone, e 4-5 palline, poi mettevo il Miles, che buono. Il rugo mi ha messo, non il cognac, il rugo, ma sbaglia tutto. Hai visto i nostri peccati, Natali, eh? È un peccatore questo Gianni. E io non ho avuto l'emozione di mamma, il sabato si può fare, poi durante la settimana la madà. E oggi per dire, oggi ho mangiato una fettina di insalata, un arancio e via. E cosa ho mangiato? Non ho mangiato quasi nulla, vero io, basta la glicemia stamattina. Sì, già lo so. Se ce l'avevi a 76 era bassa, sì. Comunque, dopo che ho mangiato tutta quella cosa, l'ho misurata, sai quanto ce l'ho avuto lì? 164. Io comunque, guarda, in questi giorni sono sempre 113, anche a me, chiami della polizia, 107, 110, anche di 20. Per oggi a mezzogiorno, cioè alle 2, l'una e mezza ho mangiato, ho fatto al forno, ancora non me l'ho misurata. E a che timmi? A che timmi che si ha? No, dopo me la misura. Dopo due ore te lo devi misurare, non subito, dopo due ore e basta. Anche un'ora e mezza va bene. Io ho mangiato rigatone al ragù, dopo ho mangiato un pezzo di salsiccione e una fettina. Boh, non ho mangiato, è un pezzo di pane. Il microonde sta rotti, non lascia bagnata, è troppo buona. Scoppiato la terra, se torna da scongelarmi il pane a pranzo non me l'ha scongelato, il microonde deve essere partito. Evidentemente sì, se non ti ha scongelato. Io mi ho mangiato mezzo panino, senza la mollica. No, infatti ho preso le spianate, le ho messe sul fornello del gas e le scongela su. Ma io per me scongelare c'ho il tasso per andare sulla manopola, metto sul coso, dove c'è tipo il coso della neve, là si scongela. E poi invece l'altra parte me ne scalda. Anche io era così, solo che adesso non funziona più. L'ho messo per scongelare, lo scongela. L'ho messo la posizione per scongelare, non scongela più. Lo usavo ogni giorno, quindi quella posizione la lascio fissa, comunque l'ho controllata, era lì. No, io quando qualche volta la rivolta lo faccio, quando scongelare la carne, qualcosa, se no andrà bene. Beh signori, io mi sforzo che me ne vado in cucina e vado fuori, ci devo stesso, con le vicine a cancello, il faretto con il fotovoltaico sopra era uno sopra l'altro, sbagliato. E quel palo scatolato, cacchio, 3 metri, 3 metri, uno dentro l'altro, con due spinotti, insomma un casino, pensavo a me. Mi sono fatto la mazza, comunque sono riuscito a mettere la bocca come Dio comanda, una a destra e l'altra a sinistra, adesso è perfetto. Ok dai, continuate, vi ascolto un po' dal cortile, perché la finestra è aperta, la camera da letto. Ok, ciao Natalino, ciao Gianni, nelle prossime linee, ciao ciao. E nella guida delle gente della maglia parlo di io, se siete usciti. Ciao ciao, tu chiama ti ha fatto sei maro. Ah, guarda, dice, vi ascolto, e come fa a ascoltarci dal giardino? Se ci ascolti vuol dire che sei in cucina, prima ti scendi, sono in cucina, dopo sei in cortile. No, guarda che la finestra da sotto in veranda, abbiamo la camera dentro, si interno, ma con ambizio si siete tutto me. E se quanto sei maro, no, che io non mangio poi. Questo ormai c'è 8 e mezzo 9, dai. Ciao ciao, ci sentiamo, ciao, riprendi Natali. Ciao Tony, ciao, stai andando via, buon proseguo. Grazie per le 4 chiacchiere, avanti già. Ciao ciao. E io vabbè. Ma invece Biglia, lo prosciutto, tutto cazzo si è fatto rubarino, che non gitta la gara come te avevo compitato di paghetti. Luca, sì. Sono al computer già. Ehi, vabbè, che non sei riuscito a regolare quello là di microfono, perché fischia? Perché ci sono le connessioni volanti, capito? Adesso aspetta un secondo, te lo riattacco, gli ho messo una ferrita, ma credo che inneschi un po' lo stesso. Ma il volante gliel'hai fatto, non ne hai messo spinotti? No, è volante così, capito? 4 fili inseriti nello spinotto. Sì, ma tu sei, si muovi tutto cazzo, ma... Natale, ci sei. Eia! Riprendi. E io sono un attimino che devo andare in bagno. Eia, sono qua che stavo parlando in verticale. Gianni. Oh, lui, stiamo andando in bagno, dimmi. Il mercato sta. No, adesso no. Dove sono ferrite così, il mercato? Provo a mettarlo. Vedi un po'. Meglio qua qui. Sì, però non lo metta, prima lo mettava di più, era più forte. Sì, la sei. Basta, mi sono adesso. Adesso in questo momento non va mai innescato. La prima sessione di solito, guarda, di massimo, sta. Sì. Il capo è quello originale, che non è altro che un pezzo di capo elettrico. Vabbè, vado in mare, sono pescato. Ciao.